Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti». Ecco, oggi sono stata colpita da questa parabola in un modo un po' particolare. Cioè, io non penso che le parabole dobbiamo prenderle alla lettera, perché se le dovessimo prendere alla lettera, veramente alcune cose non quadrano. Perché? Perché, ad esempio, quale agricoltore seminerebbe il seme lungo la strada o in un terreno sassoso o dove ci sono i rovi? Nessuno. Quindi Dio non è che semina lungo la strada la sua parola, non è che semina in un luogo sassoso la sua parola, ma semina la sua parola in ogni terreno, cioè in ogni persona. E ogni persona di per sé è potenzialmente un terreno buono. Diventiamo però la strada o il terreno sassoso o il terreno con i rovi quando ci aggiungiamo cose che appunto non aiutano a far germogliare la sua parola. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il seminatore, che è Dio, vede, dà a tutti noi la sua parola. A tutti ce la fa aggiungere, o in un modo o in un altro, o direttamente, o attraverso delle persone, o attraverso appunto la Bibbia, o attraverso le circostanze. Il Signore ci parla e parla a tutti, e tutti potenzialmente possiamo ricevere questa parola. Però che cosa succede? Che alle volte alcuni ascoltano con entusiasmo, ma poi, presi dalle preoccupazioni della vita, ecco che l'entusiasmo scema e allora trovano le difficoltà e lasciano perdere. Altri invece si fanno prendere dai piaceri della vita, altri dalle preoccupazioni, altri dagli affanni. Insomma, ognuno si fa distrarre da qualcosa. Alcuni però invece fanno fruttificare questa parola e si concentrano appunto nel coltivare questo seme della parola. Allora oggi il Signore ci vuole dire: tu, in questo momento storico della tua vita, quale terreno sei? Perché non è che tutti siamo sempre il terreno sassoso o la strada o il terreno con i rovi, ma lo diventiamo in un modo o in un altro a seconda di che cosa facciamo albergare nel nostro cuore. Se facciamo prevalere le preoccupazioni, se facciamo prevalere i piaceri della vita, se facciamo prevalere l'egoismo, se facciamo prevalere magari invece l'altruismo, il pensare di più ad amare le altre persone, che cosa facciamo prevalere? Ecco, a seconda di ciò che facciamo prevalere, il nostro terreno è più o meno buono. Allora oggi facciamo questo proposito di vedere, di sgombrare il più possibile il nostro terreno, non solo di ascoltare la parola con entusiasmo, ma cercare di coltivarla, cercare di farla crescere, cercare di non soffocarla. E per fare questo, per diminuire le preoccupazioni della vita, di che cosa c'è bisogno? Di aumentare la nostra fede. E come si aumenta la nostra fede? Diminuendo sicuramente le nostre paure, a meno che, cioè, o meglio, le nostre paure diminuiscono più aumenta la nostra fede, e la nostra fede aumenta più noi ci fidiamo del Signore più noi, passiamo tempo con Lui e passiamo tempo con le persone che amano Lui. Allora facciamo il proposito oggi di passare del tempo con persone che noi pensiamo siano sante o quantomeno più vicine di noi a Dio. Buona giornata.